sei, tu sei, lo so. Io vorrei raggiungerti in trasparenza. Tutto è vedere te con i vestiti e senza. Tu sei, lo so, la mia rovina. Tu sei, lo so. Passerai tutta la vita. Voglio ritrovarti qui nei miei risvegli. L'aria dei capelli tuoi respirare voglio. Tu sei, lo so, mai come prima. Passerai tutta la vita.